chiedersi se non ci sono, non c'era. Ah, non c'eri, ho capito. Caro dottore Montalbano, che tanto si è trovato con il vocabolo. E allora, Guido anda a giudiziona sempre lì che basisia al dottore. Per carità. Una cosa allucinante. Dottore, mi scusa se c'è una signora che però c'ha il nome da uomo. Invece è Giovannini, purtroppo la faccia entrare, invece la problema è buona butta. Oh, iai, come sto? Non si è sentito nessuno? Io non lavoro, no, ma poco fa sono arrivato. Ah, giusto, oggi c'è il rientro, così. No, l'ho fatto martedì scorso, ti ricordi? Martedì quando abbiamo montato l'antenna l'ho recuperato mercoledì. Gara, gara. Adesso mi aspetta venerdì, domani mattina intanto alle mezzogiorno, mezza sono a Sassari, c'ho la visita medica. Visita abbiamo domani mattina, completamente le visite, quindi domani spero di prendere l'una e mezza, massimo le due, di essere a casa, e se no ci giriamo il Camagisi. Attenzione, Ratapignana, questa tua ragazza non sta bene, boh, non sta entrando in radio, non sono preoccupato. Ieri non è entrato per niente, per esempio. Mi. Buonas tardes. Stavo aspettando che entrasse qualcuno, nel frattempo mi stavo leggendo un po' di roba. Ohia! Faccio sapere, stavo leggendo, leggendo. Adesso non ne resta un po' tranquillo. Ma ieri ti sei strapazzato e oggi ce le ho sapete. Ieri era oggi, c'era un bel sole, ci siamo preso il gelato, stava troppo bene. Anche io. E tu anche io? Io sono sceso a Porta Torre se ieri mi ha preso il gelato, sono sceso con un'amica di mia moglie e con mia moglie. Ah, a Porta Torre se Emiliano voleva scendere, ma a me non mi piace perché sono tutta la settimana a Porta Torre, se vedo sapere se si faccio. C'era Finati, c'era io. No. Avete visto il concerto? Che dica? Di Finati. All'indice ho già bucato già, casomo, sono stanco, tra la settimana non è tornato, già, tu ne fai quanti, 20, 40, un po' ne fai, ma per te sta che lo stesso, io ne posso dire 150 lì, sono da pezzi, perché oggi ho mal di schiena. Lo so che sta, grazie, lo so che sta a fare chilometri, ne ho fatto, ai miei tempi ne ho fatto, con il cane, con il furgone e via, andavo anche a Cagliari. Infatti sì, è più tranquillo tutto quanto, meno male, via, che stiamo invecchiando, bisogna calare, via, comunque stavo ben bene ieri almeno, c'era la gente come d'estate qua. Sì, bella giornata, ma anche oggi era afoso, affa, proprio si vede che, capito, ha fatto un po' di caldo, adesso si è messo questo viventino di... vento di coso, di non so se sciroppo, se di beccio, non so, fa sempre un pochino caldo, dai. No, ma diciamo che qui abbiamo trovato gente là, siamo stati bene, una bella serata, solo che abbiamo camminato, ho detto, vado in giudice di Aposo, abbiamo fatto una passeggiata a Sino, dopo il Moulin Rouge, eccetera, eccetera. Aspetta, partita, c'era la festa di San Marco, ieri, oggi mi pare, anche, okay. No, oggi cos'è? No, 27, era 25 e 26 era. Già lo so, ma sono andato tanti anni, sempre le solite bancarelle, schiaffi, solo bancarelle, per i turi di torroni e tutte queste cose qua, è sempre uguale. Non c'è nessuno spettacolo, niente. Quindi abbiamo approfittato almeno perché almeno c'è la gente, almeno là ci sta bene. Mi sono portato anche a Taiso, con il guinzaglio lungo, e praticamente stavo salutando un mio amico che praticamente figlio con bastone, non ha visto il guinzaglio, tanto giù mangiare il sacco, con la ferro metto, occhio, l'ho detto in tempo in tempo, mi stavo per cadere. No, perché l'è passato, il taglio lungo è pericoloso per quello, soprattutto quando sei così in mezzo alla gente, capito, la folla, un casino, vabbè, pensate sia andato tutto bene. Catani! Ma lo sai cosa hanno rubato anche? Tutti i bulloni delle ringhiere nuove che hanno messo, visto che ci sono quei bulloni chiusi, quelli che ci sono anche le biciclette, le ruote dietro, sono chiusi così, non sono di quelli a birriti. Ida, tutti rubati si via. Certo, cosa abbiamo che durava le bocche si bullò? Saldato volevano messo e saldato. Le ringhiere nostre, la recensione nostra che è fatta da una stradina all'altra, fa tutto il giro del palazzo, che non è un bel. Noi abbiamo messo quelle e poi il montato ha messo un punto di salvatura, capito? Ci vuole la mola per toglierle, no? Ma manco ne dura, anche se ne vuole nei dotti. Ma non l'hanno fatto a prototore, tutte le acciaio inossidabile. Quella sì che dura. E anche queste sono tutte le acciaio inossidabile. Quelli a piatto, capito, che incassano e tutti di bullo. Se li stavano tutti fregando. Allora, dalla parte di dietro, una volta c'è il bullone, con la salvatrice l'hanno tutti puntati, capito? Dice, noi ci stiamo bruciando. Vabbè. Natalie, dimmi, tutto a posto. Tutto a posto, da buoni a posto. 200, sono arrivato a 200. 200? Eia. Lui tanto che succede di vai, dai i rifiuti. Mamma mia. Vieni già con Natalino da mangiare il cane. Cosa? Non ho capito. Vieni con Natalino da mangiare il cane. Ma adesso non l'ho mangiato manco a pranzo. Non ne ho voluto. Mi ho fatto la roba, ho messo la carne, niente, non l'ho mangiato, dove sei non ne ho voluto. Adesso vediamo se se lo mangia c'è. Perché io non gli faccio altra roba, gli posso mangiare isso. E se lo sfido l'abitudine di fare i giriati. Natalino, cos'è? Confezionate io, ne ho sparato, ne avevo 100 domenica solo e me le ho sparate, però ne ho fatto 200 adesso. Ma so come sono a salve oppure sono proprio proiettili lì? No, di quelle vere sono, da salve. Andave, ne ho sparate all'aperto, non è pericoloso. No, che vado al poligono io. Cosa serve il permesso per andare qui a casa tua al poligono? Non serve nulla, ci vuole il porto d'arma e boh. Se si taglia anche quello così non posso di blocco. Se mi trovano col fucile c'è il porto d'armi, cosa mi fanno? La faccia nel di dietro mi metto. È un porto d'armi per uso sportivo, così è. E allora? Ma no, quello da caccia non c'entra nulla. No, e poi... quello da caccia lo devi portare solo ed esclusivamente a caccia. Il mio è per uso sportivo, è un fucile a pompa. Ah, cavagare, capito. Ce va bene. C'ho anche la carabina. C'è quella anche la precisione col cannocchiale, ancora ce l'ha. Ehi, quella col cannocchiale. Ahia. E poi c'ho un'altra pistola, ne ho due. Quella nuova non l'hai vista tu? No, io ho visto la vecchia. Quella me l'ho venduta, quella calibro 9 che c'avevo. E me ne ho preso un'altra. Cava cava. E a me mi ricevi una. E devo mettere la passo. Ma Salviniti da cura minori, mi. Scherzata, io già ce l'ho, c'ho la nuova lunga, la Bruni, però non è vera, di quelle a salve. E ne ho provato una di quelle vere domenica, di quelle lì, però era bella quella che ho provato, cazzo pieno di calibro 9 parabellum, quelli sono i poliziotti che mi stanno rompendo le balle, vengono a sparare lì e non raccolgono i bussoli, bastardi, infatti ne ho raccolto pochi dei miei, già ne avevo qua, perché la DT tutti misciato, ma che ci ha fatto pure uno per farabello tra i miei presi per sbaglio. Ma i vostri raccogli si possono ripristinare? Cosa? I vostri raccogli puoi ricaricare e puoi ripristinare? Allora, io me li raccolgo e me li ricarico. Ah, ecco. E non si allargano, non si deformano quando li sbaglio. Ma io li ricalibro. C'è qualche apparecchiatura? E allora è fatto apposta, li ricalibrano, se li fa come nuovi. Se uno si è spaventato, cazzo, sembrano di quelli commerciali, perché io c'ho un attrezzo che te li fa come quando li compri, capito? E conviene caricarli così? Come? Conviene caricarli che comprarli nuovi. Già lo credo. Cazzo, a me mi costano 54 euro se li ricarico io, se li ricompro costano 18. Che cazzarola. Ma non li forniscono nel campo proiettili? No, te li devi comprare tu e devi andare già con le cartucce. Solo che noi spariamo un bene per lo sport che facciamo e tocca a Sarri, tutti ricaricano da noi, se no non ti conviene, no? Che è troppo costoso. Ah, beh. E come funziona la tariffa? Devi pagare per tirare, per stare a tirare? C'è il campo di tiro alla Crucca lì, e ti devi tesserare, sono socio del campo. Ah, ecco. E la gente già fa usare, io ho capito la Crucca. Sì, no, ce l'ho anche ricordato Gianfranco io, un amico. Ah, un amico tuo? Sì, ma la vecchia data, in realtà, da ragazzini. Da ragazzini ci conosciamo, proprio da piccoli piccoli. Ecco, io volevo portare a Marco a sparare e non c'è venuto, peggio per lui, a chiedere drommi, compreso. Ma per sparare devi avere poco d'arma, no? No, anche senza portarla, se vieni con me non ce n'è bisogno di portarla, già ci sono io. Ah, sì. Vabbè, già è bello. Io una volta solo ho sparato con la pistola. Mi avevo fatto sparare i tonigio. Fratello di bravocciata. A cui avevo sparato, cazzo, ho preso la luce, si è detto, piu, ci siamo tutti ammasciati. Ma di tutto si è pericoloso. Quella mia non pesa un tubo perché è di plastica praticamente. Quella vedetta pesa il doppio della mia. Perché anche di plastica mi fa adesso? E la mia c'è solo il carrello di ferro, tutto l'altro è polimeri, no? È plastica, polimeri. Anche la carabina, il fucile, è tutto di plastica. Ma se lui cosa massicciava? E io, ma intanto pesano bene, no, non ne ricavi nulla. Poi la beretta spara in basso e a sinistra, invece la mia dove spari va. Ah, ecco. Ci sono quelle che sono false sparare. E io, anche la panfuglio che avevo io, dovevo sparargli a testa per prenderlo al cuore, battere un gonto, perché sparava un bel in basso. Me l'ho venduta e mi ho preso questa qui. È brutta come pistola, ma è molto precisa. Brutta, è come di quelle automatiche o semiautomatiche, come? Automatica. Quelle, una è Glock, si chiama Glock, è austriaca come pistola, ma è bellissima. Cioè bellissima, è brutta come pistola, ma è maneggevole e precisa a me. E ma adesso non ha la sua bruttezza, ma è l'originale. Come? Che dico, non ha la sua bruttezza l'originale, perché non ce le avranno tutti queste pistole qua. Tutti, da noi c'hanno tutti quella lì, figurati. L'FBI, per esempio, americana, hanno tutti quella lì. I carabinieri del coso c'hanno quella lì. Non ne hanno beretta quelli, no, bastardi. C'hanno quella come la mia, proprio uguale. Solo che c'ha il calibro da guerra. Cioè, sarebbe 2 mm più corto del mio. Le mie sono più lunghi. Io posso sparare le loro, ma loro le mie no, perché non li chiudo la pistola. Ah, ecco. Sono tutti inghippi che bisogna sapere quando qualcuno si informa, quando ha la passione, io ci vado a fondo nella passione. Qui l'unica passione che mi sono un po' pentito di aver preso la macchina fotografica, l'ho pagata 730 euro, ma non è passata la gara di fotografarmi qui. E neanche io la sto usando più, io ce l'ho la Canon, è bellissima come macchina fotografica. C'ho il grand'angolo, c'ho il teleobiettivo, l'obiettivo normale, sì. Però ti devi buttare troppa roba appresso, c'ho due cavalletti. È vero, ieri anche io ti ho detto guarda che porto la macchina fotografica, e c'avevo il morsello sulla spalla, la macchina fotografica sul collo e appeso nella mano, e poi mi sembrava un manichino. E infatti è troppo ingombrante la roba, quando vai troppa roba andrà a pucciacca, e anche che io non ho più quella resistenza di prima, capito? E quindi no, quando vai roba troppo bisanti no, non mi piace. Io ce l'ho di 60, la EOS di 60, la conosci? Sì, ce l'ha un amico mio uguale. Io ce l'ho la 1300. Ecco. Come funziona? Sì. Più è basso il numero e più è professionale la macchina. Lo so. No, ma la mia funziona benissimo, fa delle belle foto. Sì, non lo metto in dubbio. Le Canon poi sono Canon, non è, non c'è niente da fare. Mi hanno detto di prendermi l'altra, ma ho preferito carare invece sulla Canon e sulla... non mi viene adesso come si chiama l'altra. Vabbè, comunque mi hanno detto di prendere la Canon anche perché l'altra aveva sempre difetti interi, eccetera, eccetera, dava problemi. Poi ha fatto la giusta, bisogna mandarla a furia addirittura. Ma cos'è la Nikon? Sì, la Nikon. Sì, la Canon è Nikon, io ho chiamato un mio amico che fa fotografo in continente e mi ha detto già qua c'hanno tutti quanti la Canon, prendi la di 60 che vuole bene. Io ce l'ho, la uso per i matrimoni, cosa dice perfetta come macchina, non mi ha mai dato fastidio né nulla. E così ho fatto, ho preso quella lì con lo zoom eccetera eccetera. E ho usato però la mossa Fioretta, quella che c'avevo della macchina fotografica, che pure ho buttato al cassonetto, perché era una mania, la mia, professionale, mi sono buttato al cassonetto perché tanto non trovavo nessuno a metterla, e alla fine ci ho buttato la macchina fotografica e anche la telecamera. Detto bene. E adesso c'hanno tutti quelle così, tutte elettroniche, digitali, purtroppo è così. Io la passione per la fotografia ce l'ho sempre avuta, capito? Avevo anche studiato fotografia e ho fatto delle belle foto. Anche io, non te lo ricordi che tu ti avevo venduto un flash, un mezzo, ma l'avevi dato tu forse, tu mi hai dato il flash e ti avevo dato un orologio di quelli della ferrovia d'argento. Beh, dell'orologio non me lo ricordo, il mezzo già lo so, quello con la fotocellula che te l'ho dato io. Sì, ma mi ricordo tutto, io ci ho mai avuto in tanta ricca. Mi ricordo roba di anni e anni passati, sembra che mi ricordi di oggi. Ma io sono diventato vecchio, rimambito, beh. Ma non ti sottovalutare. C'è chi ha più memoria che ha di meno. Ma me lo ricorderò per proprio qua, che ho dato un orologio con la catena di quelli a cipolla, di quelli della ferrovia, proprio in argento che a te ti piaceva, e te l'avevo volato. E dove tu vieni col flash che mi serviva per fare fotografie in angolo. Quello è il speciale che ha Sacro Cuore, quando facevo fotografie, matrimoni e roba del genere, quando fotografo un barato si accendeva anche il mio flash, quindi illuminava tutti gli angoli, capito? E si mette così quello lì, poi funziona anche staccato dalla macchina, no? gli metti l'interruttore della fotocellula, praticamente tu quando scatti scatta anche lì. Sì, è un bel flash, ne è durato tanti anni, solito c'è la palmatura, la palmatura, la pecora, intanto faccio che per queste macchine non vada un bel ma non lo so. È fatto diverso adesso. Oh, tu già amato. Parlano di queste cose, stiamo parlando di 30 anni fa. Eccomi. Ti abbiamo sentito. Avanti. Ricordi che io c'è con Pedro Valerio, quando entro ho fatto gli auguri. Però ci paga la bella. Dici, deve pagare la pizza, non pagare la bella. Deve pagare la pizza. Adesso ci mettiamo d'accordo e andiamo a sé. Andava. Questa volta qua però voglio andare dove lavora tua figlia, se non l'ho mai visto quello qua. Altosio, mamma mia, non sai che non ci va di là. Perché vai, io già, non sai che non ci va. Perché non sei comodo, a parte il fatto che non c'è da bere è un Vergara, già te lo dico di persona. Non ci vado per quello, sono nato un paio di volte, no, non mi piace, non mi piace. Questa cosa devi pagare, ti danno lo scontrino, poi devi fare la fila per prenderti la roba, poi io mi posso, mi porto sui figli, cioè. Andiamo allo spizzi zitti, insomma, dai, che siamo fatti bene l'altra volta. Ce n'è anche un'altra bella, dove metto la musica che sto qua, c'è dove, di fronte a Città Mercato, lì. Mi hanno detto che è molto bella. C'è andata un'amica, con le amiche mi ha detto che sono state molto belle, hanno cantato, eccetera. Andiamo, così ti facciamo cantare, dai, andiamo lì. È un posto dove si canta, noi l'altra volta ce ne siamo andati proprio al momento che stava cantando, che a noi mi piace proprio isso. Quando si canta è andata a cantare. Non canta al microfono, però già canta. No, io c'è vergogna, ma non ti dà, sai niente che mi dà, come canta anche io. Comunque andiamo dove c'è musica, già. Non ce n'è problema, durante siamo a Sassari, capito? Non ci dobbiamo allontanare molto perché sono poi un casino. Va bene. Cosa stavo dicendo? Niente. Buonasera. Ciao Lulu. Luigi. E allora come va? Tutto a posto? Tutto a posto è inutile. Si sente? Beh, la differenza già c'è. Esco meglio qua? Beh, esci meglio qua, sì, più forte del camper. Capito? Esci meglio, sì. Ma l'antenna qual è? Sempre quella lunga, quella corta? Quella corta. E dove sei adesso? No, adesso sono entrato a Sentino. Certo, Sentino. Ma c'è la Cusino? Che 9.25? Ehi, già, faccia perfetto l'antenna. Dopo giro di luce mi pare 9.25 qua Sentino lo vedo, quindi sono basso. Perché la lanterna è inserito, non so, mi pare sano 9.5 si qua, l'ultimo segnale da Sentino, caspita, io lo vedo Sentino da qua, da sul tetto, vai, non dalla finestra, si vede. Allora Gianni, tu 9.25, cosa sei? Sono la solita Capo Falcone. dici tu. Le bugie ci sta dicendo. Ciao Sam, buonasera. Cosa ti ha ribattezzato? Santi. Oh, mi sembra tossando, non ho capito. Oh, Valerio, Valerio, tu c'è. Sono io, buonasera, sono inizio con tutto, sono santissimo. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Valerio, tanti auguri a te. Auguri Vali, grazie a tutti, sono morto. Madonna, grazie, molto, molto, molto gentile, no, mi è commosso anche, Gianni. Ti ho commosso anche addirittura. E vabbè, la voce di Gianni il caso, e come per sempre. Gianni, dottor Roma. Ciao, buonasera, circolari a tutti. Ascolta, ti interessa una macchina fotografica comprata l'anno scorso, la Nikon 310? No, non sto prendendo la mia, guarda, sto prendendo la mia perché non l'ho usata. Sinceramente mi sembra strano, a me mi arrivano per dieci. Vai, accetta Marcato, ci bisogna, dopo fatto 9.25, adesso ho fatto un passaggio 9.20 qua. E fine, dai Eugenio, finira. Ciao, vale, io te l'ho fatto per telefono, gli auguri, ma te li rinnovo. Tantissimi, tantissimi auguri, a 30 anni. Claudio. Dimmi, sa. Ma come si spiega se Eugenio è stintino, io lo sento segnale 1? Perché a Sassari è al contrario, ho capito. È al contrario, No, perché lui c'ha tutta la radio scacciavrittante e non esegue. Oh, io, Sandro, Sandro, come sei messo? No, aspetta un affronto, Ma Sandro proprio queste cose non le devi dire. Vabbè, comunque sia Sassari. Abbiamo capito. Ok, comunque da Stintino a me 9 mi puoi arrivare, ma non 9.25. 9 mi puoi arrivare, 8, 9 mi puoi arrivare tranquillamente, senza lineare. Capito? Quindi perché ce l'ho a vista ottica, come ce l'ha Gianni. 9.25, no, tu sei centromercato e va bene così, va. Abbiamo scherzato. Valerio, avanti. Segnali. non mi sente, boh. Va bene, non ti sente perché c'è quella a 1000, ok? Poi è tutta birra, se vuoi ti intendi a Valerio, se no non ti intendi. Cosa hai detto, Eugenio? Adesso me la sta provando, capito? Me la sta provando, te la prego, beh. Adesso piano piano mi rientro al fornitore, si vedi un po'. Io già mai calato, te l'ho detto, hai calato un bel, hai calato un bel. Io da dentro Sassari, da Città Mercato ti ascoltavo molto più forte, capito? Molto più forte, invece sei calato, ma sono accorto. Con l'antenna da città, ma quando stai viaggiando ci vuole l'antenna lunga, poi da Gianni. Gianni quando esci dal posto di lavoro è 9 fisso. E arriva a Sassari sempre 9, 9, 10, 9, 9, 10, con l'antenna piccola era 7, 8, avevamo già fatto le prove, a volte 9, però come incrociava angoli di ombra non lo sentivo più, capito? Con l'antenna piccola è per città, l'antenna grande serve per viaggiare oggi. Ecco peggio, va bene, riprendi già. Ehi, allora, se mi fa parlare Sandro, che da poco fa sto facendo una domanda, un interrogativo a Valerio. Valerio, ho una domanda discreta da fare. Scusa, sì, per viaggi lunghi va bene quell'altra, lo so. Adesso vediamo un po' quanto non vale Massimo, mi raccomando. Sandro, che non aspettate che vi chiamino. Sei così vicino, eh? Ne sono due più di me, dai. Perché due più di te, già? Non sei 59 tu? Sono 59, ne ho ancora 57 io. Non ne hai 58, ne fai 58, non 57. E io devo compiere 58. Vabbè, appunto, anch'io devo compiere il 58, ma siamo lì, sempre il 58 lo avremmo, non è che ci siamo nuda, no? 3 mesi prima, 3 mesi dopo, sempre il 58 io. Lui è del 58, noi siamo il 59. Io ne ho ancora da fare di mesi. Comunque, più o meno siamo uguali. Sono del 57. Tu sei del 57, te lo so, tu ne hai 60. A ottobre già. E come mia moglie, io novembre, quindi. C'è anche un mese più grande. Va bene, banda le ciance. Allora, vediamo, Eugenio, cosa stavi dicendo a Sandro? Cosa stavi dicendo? Guarda che Sandro c'ha apparecchiature serie, ma serie serie. Claudio, lo dico per lo stesso giorno di cavolo. Ehi, al 20, 20, sì, sì, sì. Io non lo sento, Sandro, già sento, passo. Sandro sta uscendo col baracchino piccolino che sta lavorando al computer, se lo disturba. Mamma mia, guarda. Lui c'ha dei programmi particolari che se vuole lavorare, se si mette a attaccare, capito, di football lo usa. Usa il baracco piccolo, capito? Va bene, tata lì. Eia, io ho messo tutta birra, però non mi sente Valerio. Ehi, ma Valerio è particolare. Valerio, non lo senti per niente a Natalino? Guarda a vedere se mi senti. Vabbè, ok. Lineare, bighere. Natalì te l'ho detto, mi dovevi mettere. Un 747 collegato, l'alimentatore ce l'hai, quando tu lo lasci a 5 watt e fai ding e diventano 80. Capito? Allora la musica cambia. Capito Valerio? Valerio passa qua da 7 a 9. Da 7 a 9 passa anche di più. Ma lui a me mi arriva basso, capito qua. Ehi, vabbè, vabbè. Noi possiamo pretendere molto, però, da lì. Un bel QRM, c'è un bel QRM, un GBB. andare da fuori. Allora, anche qui ci se lo fanno pagare, insomma, costa una... non mi ricordo come ho fatto, io ne ho preso due, ne ho due. Che pagava? No, ma non ti muovi neanche quello per lunga distanza, capito già? Qua è 9.30 la tarima, non è che... per lunga distanza, capito, metti attacchi di vignaretto e già fugge, già fugge. E lo aiuta, ma beh, certo che sì, soprattutto con Valerio, perché da per parte non ne ha di problemi, soprattutto da Valerio, da Giuseppe, capito, però il dottore, se sì, insomma, da per parte non ha problemi. Devi dove ha inteso Eugenio nella discesa di Bonova? Deve essere che la zona di Alghero non è favorevole per lui, si può avere una zona che è buia. Sì, c'è Monte Oro più alto, c'è Monte Oro, bisogna tirare su almeno di altri 4 metri d'antenna per avere un po' più di guadagno, ma non c'entra, non serve niente, il vignaretto, vabbè. Avanti, vabbè, si è andato da Giuseppe. Tantissimo da lui, che poi ieri sera sono tornato anche andati da produttore, c'era ancora della cosa da Daniele Torezzi, ero morto, praticamente ero morto stamattina, allora niente, non siamo sentiti, non so se tu sei in assenza o meno, questo non so. Vabbè, cosa dobbiamo fare? Se mi sento bene, qua c'è una zona, ancora c'è una zona negativa. È un casino veramente, lì c'è questa popolazione, questo casino qua, e non riusciamo a finire, non riusciamo a finire, sì, proprio, ma c'è uno sicuramente un po' coloniale, ma sono 50 lati, non di più, 50, adesso che sono 50, almeno lo sentiamo anche se c'è corrente, certo se c'è corrente 109 qua no, però non c'è niente Claudio, ma c'è più di gusto, ok, dai. Non so se sei in ascolto poco, Giuseppe, non so se visto per caso. No, non sento per niente, io vabbè, non fare così con 20 watt, se tiro su come ho fatto l'altra volta, già non c'è problema. Cucinando, ma il figlio, infatti il figlio è partito, credo come senti rumori strani, più bisogna nasconde. Sì, si è sentito forte, ogni sentito rumore, non tu. Ehi, qualche pentola è caduta. Era la voce con me, se legato con Coppa Claudia. Sì, non ci può più, mi trova con la bestia, tanto lì è tutto esci. No, scherzo. Tu via. Invece io ero anche lo fare ieri. Lo volevo mandare a un dottore perché c'era finale. Non so se sei andato al concerto, però qui ho opzionato per Alghero, perché se volevo sempre le stesse facce, la Bururica, però qui vedo sempre le stesse facce. Io già sono andato a farmi un giro, poi mi ha telefonato la sorella, ma non vieni, io non vengo, sono andato a farmi un giro, sai, chissà. Allora sono andato per cena, capito? No, non sono andato a vedermi il concerto, no, non ne voglio. Invece io ho camminato, sono tornato a casa e c'erano i piedi che cantavano la Ida a casa. Ah, tanto ti hai fatto una passeggiata, no? Sì, sono stato bene anche. Ci ho portato a cantare, ci ho fatto passeggiare anche a me, tornato a casa, si è messo sul tappeto, blu, crollato. Io sono rientrato, Grazie, tranquillo, no Claudio, vado tu, hai lavorato, sì, tanto. Eia, io direi che abbiamo sentito. Non avete sentito? Sono entrato! Eia, poi riprendo, ce la dai. Claudio, ma è possibile che a Ulisse, quello che si ha portato le divise, l'hanno trasferito a Alghero? L'ho visto Alghero con la divisa e si è scritto vigili di Alghero. No! Ma per Claudio non risponde, riprende in Alghero. Ehi, cazzo. Pubblicazione di una... Mi tocca andare a tutta birra, mi tocca andare e non mi sento pure. Boh. Come Natali? Qua sta arrivando una radio allucinante, se mai non so, ma è una radio fortissima. Cappa, perché siamo vicini. Sì, sono nella strada da Roma, per sentire, diciamo. Devo passare attraverso posto San Nicola. Cappa. Malghero deve essere negativo per me, capito? Anche lui mi arriva basso basso. Come arriva a me? Lo stesso per me basso basso. Ma io ti ascolto qua. Ancora me, nessuno mi batte, sono troppo forte. Ma la Tappigliana non è entrata? Neanche ieri non è entrato, boh. E allora ci ha buccato la piscina. Cosa? Ci ha proprio buscato la notte. Sta schiacciando forte. Sì. Non è uscito, boh. Io l'altro giorno sono andato a Pantamone, ho visto quella lì, mi sono ricordato di lui, tanto là che Claudio dice che l'abbia da usare. Non penso, mi sa che c'è già di della cosa, la tettuia del tram, che si è messo tutte le lampadate attorno. Sì, questo, quello là, si è fatto la luce. E chi è? Quella che aveva trovato il cognome di Cesare Sassari, aveva fatto questo. Lì l'aveva fatto sempre questo. Gli aveva fatto saltare in carcere. Non so, non andare, c'è lì. E adesso che però è come stare in galera, che lui in galera c'è già stato, infatti a lei. Ci avrà fatto un letto. La cosa che ha fatto la cosa, la cuccia. La cuccia? Tutta bella di gara, no? Sì, esatto, ha fatto questa cuccia. Che cosa? Ha preso qualcosa? No, stavo parlando di quella di Pantamona che ha la cuccia di dove ci fa fermata il tram. Per quanto i servizi urbani. L'unica piscina che avrebbe la prima della Zanghita ci ha fatto la gaccia. Oggi fu preso. Chi sa, capisci un anno fa, ho fatto soccorso. E non ho fatto, si è buscato in costa. Capito? No, lì c'è di Zimbalieni, lì c'era la luna, ma c'è questo, hai capito? Ci ha fatto anche la galera. E adesso vuole la casa, capito? Ma aveva rapito una persona ricca di Sassari. Ma no, non è tu. Dice che non c'entrava niente, però ci ha fatto la galera, adesso vuole la casa, capito? La casa vuole. Poi la casa me l'hanno data, l'unica Maria, sono studiata a Pantamona. Ah, le piace la zona del mare, e poi mi servisce Varracchia quando andi, basta pigliarci una di Ghisci. La casa, me l'hanno data, se ho fatto il vigilio urbano te l'avevo buttata anche io la voi. Poi ai marocchini cagati l'avevamo si aveva mandato, avevamo fatto una mattata, ma poi ci avevamo sequestrato tutto quanto, ai negri, ai marocchini, tutto, ci avevamo mandato tutti quanti e hanno fatto inventare Pantamona una deserta, perché molta gente scendeva proprio perché c'erano le bancarelle, ci facevano la passeggiata, cazzo, avevano rovinato tutti i chili, è desolante andarci, quindi l'altro giorno ci eravamo con Eugenio, è desolante. Mi fa schifo, dico che ci metteva a barre di buco lì di fronte a Ernesto e neanche lui ci va più, siamo vivi, ma non lo fanno più cazzare. Ma non devo con io, vedi, andiamo qui, vedi, no, più bene, così va più. Ehi, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, sacco di anni mi ha avuto, non lo so, lo so. Anche l'altro lì c'è roba bella, però quello c'è una roba contraffatta, capito? Però c'è roba bella. Genio, dove si è arrivato, genio? Se no quella, oppure lascia quella, capito? cifrata d'ingresso. Che il 747 ha dai 5 ai 10 watt. Chi è rimasto sano, tutti quindi andate a sapere tigre contro tigre. Ciao Eugenio, avanti, andate. Ciao Eugenio, ciao, sentiamo le trucce. Ma lei è andato a fare la spesa, non sanno, sta lavorando. Stava trabattando, lasciatelo trabattare. Fare. Auguri, auguri. Andate a vedere. Chi è rimasto? Tatalino. Che ore ci sono fatte? Gava. Che sono più sentito invece Gigi Vulcano. Gigi Vulcano sta entrando pochissimo, quasi niente. E gli ha detto che ha perso un po' la passione, me lo stava dicendo una volta che è entrato. Gli ho detto come la dice, gli ha sofferto un po' la passione, mi stavo mettendo a fare la guglia a casa e cosa. È una passione che si viene passata. Perché lui è abituato nel camion, capito? Al lavoro e tutto il giorno ha attaccato il baracchino, poi quando si è a casa e ti mette a fare altro è chiaro che ti basta. Vabbè, io per dire prima di entrare, come mi sono svegliato dopo pranzo, ho dato una lavata tutta la casa, capito? Ho fatto, ho lavato il piatto. Sono entrato, non è che... Ma se è roba da fare, io sto scegliendo. Io c'ho da fare qua, no? Ma per andare chi mi ascolta e basta. Capito? Però io non c'ho a casa. L'unica cosa che ho, così mi siedo, faccio le chiacchiere al baracchino, metto a ascoltare, mi metto tutto spento completamente. E mi metto in ovvisia. Aia, tutti sono in tattica. Già, non lo fai ricordare. Mi faceva andare, ho cercato di mandare a Chiaramonti a portare la radio grande, quella nuova, prima di fare gli aggiornamenti, perché quelle vanno aggiornate, capito? Si attaccano al computer, vanno fatti gli aggiornamenti. Ma non la giocano, cioè non mi viene voglia di niente, cioè non me ne ha fatti nulla mai della, capito? Però glielo ho promesso che ci va uscire da porto, faccio due chiacchiere, siamo là tanto non ci vediamo. Però vedete è tutto aspetto, cioè non proprio. A me mi è passata proprio la passione, la voglia di. Non l'ho mai avuto sinceramente, però con un tenere sul tetto mi piaceva divertirmi un po' di più, invece me ne è passata la gara, quindi rimane tutto così. E magari poi ti ritorno, è a periodi, dai. Periodi che magari uno è più svogliato, più apatico, magari stanco anche dal lavoro, quelle sono cose che magari ti colpiscono. No, già questa non mi passa mai la passione, un barchino mi piace sempre, l'altra banda non mi interessa, ti ripeto, non sono mai stato. io non guardo la radio perché se no mi viene l'esperazione. Guarda, il mondo sale sul tetto, avessi tutto a posto. Non mi dici più questo, non mi avevo l'antenna di già, per capire più. C'è l'antenna, dottore. Sì, vabbè, se non ti interessa, no, per il momento la ce ne da parte, tu magari è capace che ti riprende la pascia. Come? Devo fare anche scavella, eccetera, per te, anche che mi ha fottuto. Oh, ma la tengo per la protezione delle radio, capite? Già mi sono tolto anche da... sono stato accolto veramente molto bene in un'associazione nuova, però non fa per me, non c'è da fare. Non mi trovo più, non mi trovo più. Infatti ci sentiamo spesso, sono nel gruppo, su WhatsApp, eccetera, però non sto più frequentando. Non mi interessa più già, perché mi è passata la passione vera e propria. CB, io sono CB, Claudio Spagliero, e Claudio Spagliero sono un po' punto e basta. Ma sa stare nata questa associazione? Sì, nel circolo RS Sassa. Ah, quella che era la famiglia, come poi c'era una che fa il video, o no? No, è presente Andrea. No, no, una associazione internazionale. Matteo da Radio Sicuretti. Ah, vabbè, che vuoi si cercare solo? Sto scelto le 20. Sicuretti. Se andava a lungo, tutti i gatti, va. E poi continuava anche a volte. Non ho più sentito nessuno di te. Adesso incasinato, già. Adesso incasinato con il fatto del fratello. È sempre giù, capito? Sembra il coso, sembra che aspetta, rispondo a te. Doppio. C'è questo sguardo di sonno. Naturalmente mi devi far via che lo titano. Il mio nome è Puro, quando parcheggiavo e potevo mettere i sacchi con la macchina, c'è per col baracchio lo comportavo straccio. Vai, cuocomani, vai. E beh, stavo gatto, giù mi è stato fratello, stavo gatto. Hai capito, eh? Perché non siete che siete cuocomani alla voce, eh? A chi vi tocca a me? In grassegne, che oggi ti ammazza la panza. Vabbè, pure io dico in grassegne, non so, ma da me, non pensi che non mi fidi. Pure io laggio la panza. Vabbè, dai, buonasera comunque, avanti, ciao Claudio, avanti. E al dito, vai a Marocchino. Claudio. E hanno pescato non so che pesce. Non era andato a Palavita e l'hanno preso un altro. Però qui ti dice un bel grado. Ah, così è. Com'è Claudio? Ehi, qui c'è un mio. E beh. Ehi, Capuccio. E chi è che è andato a pescare? Ma Carletto. Carletto è bravo. Sì, già lo so. In barca, che a quella cosa l'ha tantissimo, abbiamo pescato con quel mio amico, quello c'ha due barche, ne ha una sentina da Alghero, problemi non ha. Siamo andati al largo di Mosa, sulla entrati da Alghero e poi siamo andati verso sinistra, prima abbiamo fatto una rotta dritta, poi siamo andati verso sinistra. Ma lo sai quante pizzoni abbiamo preso? Questa roba di una ventina che abbiamo preso, tutte mattini da chilo a chilo e mezzo, ma non c'è il gusto con le canne mezze, che a me non mi piace. La faccia con l'eco è, non so, troppo ripetitivo. Voi siete troppo vicini. Infatti, è per quello sicuramente. L'eco non sa passare. Ripete troppo, dimmi qua. Tarifo, sciscio, aria. Siamo ai cane. Era una giornata fredda, era mi sento la lettera della Magattia, quello di Sambuca, sì ci c'emo, e dicemo canne cantuvira, e adesso fa, ciu, cosa diciamo adesso per essa? Ah, io andiamo, salendo a Sassa, passiamo al mercato a queste scolate, abbiamo preso 4 latte da portiamo, ragazzi, ciu, allucinante. Oh, yeah. Invece una volta io, sfruttato l'amico, ci siamo andati insieme, sai chi è Antonello, ti ricordi Antonello con la registra del computer, dice, Antonello Lucifero. Siamo andati insieme a pescare, no? Io ho pescato lì niente, proprio manco un pesciolino, io avevo pescato 4-5 grilli. Lui sai cosa ha fatto, visto che abbiamo fatto la notte, andiamo al magazzino di invece che compro qualche pesce, così almeno a mia madre gli dico che ho pescato. E dentro questo pesce, quando l'ho aperto, mi ha detto, cazzo, ho aperto il pesce, sai cosa c'era? C'era un corpo intero, cazzo, manco macerato, era proprio appena ingoiato. Poi fatto sta che trova, arriviamo a Ponte e dice, visto, a tuo marito gli ho fatto... Io ho fatto barba e piedi, Castigliano gli ha detto sì, andando al mercato a comprare, gli hanno grido. Perché tu ti avevi detto. E allora avevo già detto a Gliana che avevamo fatto questo scherzo alla madre, l'ha fatta la mamma, l'ha fatto mangiare su chi me l'ha detto, tu stai mangiando un pesce. Perché l'idea? No, è un sacco sciù. Mia crepatura deve abbigliare la riesa, c'è un cartone, ma qual è la mia macchina? Abbiamo un pezzo per carne, boh, siamo tornati, non avrà più carne, non avrà più nulla. Tutta moglie ti lascia fare altro, cioè mi dicevo, cazzo, che fai, arrivo giù che facciamo stasera al mercato, da Antonio Ara, ti vengo da due o tre ore a tiro la porzione, ma poi facciamo molta figura, che sciuga. Sicuramente passa a fare qualche imbarcazione, dove la vado a no? Allora, al modo dove andavamo sempre in fondo. E passa a fare qualche imbarcazione, e a me me ne ha buttato due lo stesso. Uno me l'ha tirato il peschiere e dice, perché stai in cazzo, sai cosa ha fatto? Stavo là per la partenza. Me l'ha attaccato al peschiere e ci ha detto, intanto scendi da con la lenza, che se no se prende il colpo a piede la lampada e vai facendo l'archetto del mulinetto. Non l'archetto, proprio dove si attacca il mulinetto, lì, me l'ha spaccato. Ma noi avevamo preso un sacco di roba, le carne c'erano belle, tutto quello di Franco era, una ce l'avevo io, due monelli dai fabelli, una era quella blu, Olympus, mi pare si chiamasse, l'altra era una, insomma, bella, però non era molto cara. Stavo preso tutto, capisci, ma prima due era già un buco da lì, ci sono lì a gara. Vabbè, mettiti. Stavo alcolizzato, gara, hai fatto pure il cazzo della Teresa, ma ho fatto la breccia, senza andare alla mia sgridata. Sì, ma non c'entravo niente da lì, io proprio il giorno non c'entravo niente, capito? Era lui che si è perso, che fa quando dispiace biglia, cosa pensi, che era sempre un mego, a me mi si puliva sempre in mezzo, ma io a volte non ero con lui, ce lo sa Luca, capito? Lui ci va anche da solo e... si cicciava per i fatti giù, e a voi direi che era un mico. Io invece il giorno proprio non c'entravo niente perché ero tutto il giorno a casa, capito? Tutto il giorno a casa mi stavano piazzando la camera da letto nuova, e poi c'era Cosio Franco 31 che mi stava piazzando la linea DSL, quindi non sono uscito per niente. E poi si è cicciato per i fatti giù, capito? Rientrando al lavoro lui passava da Peppino a Predanieta, siccome lì era proprio gli amici, non sui, non mi... Quindi dice che va a voi di attesa che era un mico. E vabbè, c'è là sono brutto, una volta va bene, ma siete un po' sempre cicciati, no? Poi quelli se non sopra la croce fanno male, cazzo, la sabuca, sta queste cose, che il sapore è buono, ma ti grippa. Dice Maria, per carità, infatti sono forse 8 anni, no? Non ho più toccato di quella roba lì, dopo c'ho il mio mangiando il buco. Cesci. E un giorno lo stesso era venuto via Pascoli, lo stavo aspettando io a Calasci, di nuovo di vetro, dovevamo uscire morto, e non accudia più, è giunto a mezzodì e rotti da ramo, perso, ho detto a toccare molto, mentre la garage che ti accompagno io, ma poi mi dici, lì, poi Franco che era un comico, Franco era una cosa allucinante, sempre ridendo, ma se toccava la moto si scendava, no, perché non ce la faceva, ma che stava in piedi, e infatti l'ho fatto mettere la moto in garage e l'ho accompagnato io, capito? Ti hanno accompagnato là. Allora, tu. Sì, per carità. Poi ha fatto caldo, ragazzi, è molto molto caldo. Ieri no, ieri era vero, c'era gente come decente. E io non la portavo da ieri, c'era gente, ma a parte non li ho visto, comunque in costume erano, mi spiace. Sì, già sono esagerati ancora, non è che c'è tempo di scoprirsi ancora bene, tempo di finire malati. Ogni cosa a suo tempo, dai, ogni cosa a suo tempo. Io sono così, vabbè, ci sono anche le commesse da noi che vanno al mare prima del tempo, di modo che poi quando c'è tutta la gente sono belle abbronzate, capito? Lo fanno per questo. Ah, beh, certo. Ma io non ne sento, io lo sai cosa voglio fare, voglio andare a metterci il piede al bagno in acqua, perché uno dei portatori si mette già, fai che ci tiri qui, dammi il retta. Tu puoi rompere a pugno le animali e ti passa tutto. Fa bene la passata, secondo cosa c'hai? Fa bene sì. La metti al piede piuttosto, come va? Sì, quello sto dicendo, la fritta sempre, diciamo che si è chiusa quasi tutta, però si è formato il caldo e c'è sempre, si spacca sempre, si chiude del tutto, poi magari ti fa una passeggiata e si spacca di nuovo, perché rimane duro, capito? Certo, ma i dolori. Sì, dolore sono. Ieri mi ho fatto una passeggiata anche, vabbè. Me l'ho preso buttito, le ho messo 4 strati di gatta per avere un po' di spessore, per non stare a toccare direttamente in terra, ma cazzo, la scarpa che mi voleva far comprare, pensavo 4-3 lire, erano parecchi. No, è troppo lecco, passo la trombocca, sono beato, Sì, forse siamo troppo vicini. Guarda adesso, l'ho chiuso, dai. Beh, ripeti cosa hai detto? Ho detto che per guarire, almeno ho detto che bisognava comprare una scarpa ortopedica. Io ce l'avevo già la scarpa ortopedica, poi me ne ho ordinato un'altra ulteriore, che praticamente rimane tipo, cosa ti posso dire, la scarpa di un marziano. Dura, dura fuori e dentro c'ha questa pompetta dall'esterno, tu pompi e che si stringe, c'è una carta che si stringe e te lo tiene fermo il piede, capito? Solo che quando così lì non puoi guidare, non puoi andare a lavorare, come ti va? No, tanto vale. E poi costava 400 euro, gli ho detto ma mi rimborsate qualcosa? Dice sì, quando ci paga la SL noi le rimborsiamo 70 euro. E ho detto no, non saranno 70 euro di denari, io non voglio mai prendere questa scarpa. E allora ho continuato a curarmelo io perché mi vergognavo andare a dirle che non volevo spendere quel tanto lì. Cazzo, ma 400 euro con un paggio di botti? Non un paggio, una solo, ma come si attende un paggio? Ah, una solo, incazza! E poi se non ti guariva il piede, se aveva fatto 400 euro. Infatti, io non ne ho preso. Adesso sto sperando solo una cosa, che quando vado a pescare, con l'acqua di mare riesco a farlo guarire. O se non mi gira, vado con il stivale, prendo un po' d'acqua di mare, mi la reggo a casa in un bidone e piano piano dirubo un gambuglio. Ci ho messo anche neoclorina, ma con quella mi ha fatto bene, no? È un casino, ma che cazzo c'ha una... non so cosa c'ha nella gamba. Praticamente sta facendo una specie di cura. Non so, non può prendere sole comunque, perché sole si muove la gamba. Carletto c'ha problemi di circolazione, lo so io perché ne abbiamo parlato, c'ha problemi di circolazione nella gamba. Carletto ha fatto 48 anni da poco, vedi tu. E già si vede che giovane, più grande di te. Del 74, lui è del 68, e a classe. Vado a portare il cane, che siamo ad 8:20, sentiamolo qua se ci siete. Ehi, dai, anche io mi preparo e vado, anche io, mi sa, così almeno ho portato, non ci penso più. E io, non più di 10 minuti, poi vado a, come si dice, vado a, a mangiare, aspetto 10 minuti qua, diciamo sono al computer, no, già. Se ci sentiamo alle prossime. Ciao. Ciao a tutti, ciao. Guarda. Prova, Natali. Guarda, 1, 2, 3, prova, va. Che cazzo. ci porta dentro tutti i segnali, capito? Il segnale tuo ce lo porta dentro l'amplificatore, perché è troppo amplificato il segnale, capito? Il problema. Lo so. Purtroppo questo qui vuole cambiarglielo io, non ha compreso. Mi chiamo l'antenna, che mazzo. Approfitta, mi dici che adesso il comitato del giornale ci mi dice buona antenna nuova. Uno che amplificare l'orietto, ma se già abbiamo l'antenna, poi non le tutti. Qui molto vicino a te, capito? Quello che c'è al vicolo, aveva la fine del vicolo. Eia, dice che cioè lo distruppo, sì, ha posto la portante. Sia quello del barattino che non sia meglio fosse, perché ti ha detto Marco che lui non lo usava perché disturbava, quindi ora sicuro che con l'Inco non disturbi. Boh, non lo so. Ti aveva detto Marco, ce l'ho io, detto ti ha fatto una massa perché io non lo usavo perché disturbava, non è forte con la radio, capito, anche lì. A 5 watt ero quando stava disturbando. Ehi cazzo, 5 watt è importante, di micro di modulazione ce n'è andato in 40. Ma cosa vuoi che ti dica? Adesso vediamo. Io adesso sono con questo. Se ci torna la metà vedrai cosa ti può dire. E via, avanti Gianfranco. Sei Claudio, ti volevo dire, siccome era un ascolto, buonasera a tutti. Se interessa qualcuno, quell'apparato che conosci tu, questo che sto usando adesso, siccome si è bruciato un trattino, no, del display dei canali, qua faccio anche il frequenzimetro, no? Quindi a posto di uscire il 10 esce, che ne so, l'1G. Lo sto dando a un prezzo proprio da apparato rotto, in realtà forse va benissimo come senti, però siccome è un imbarazzo lo do via. Chi è interessato a un prezzo proprio bassissimo a livello di regalo? Sì, Gianfranco, quello è il 5000, no? Peccato. E come ha fatto a bruciarsi una parte del LED? Si è bruciato? Sì, una parte del LED. Ieri l'ho acceso e messo una foto, ma non ho neanche accorto, gli altri canali si fanno bene, no? Solo ad esempio il 10 sembrerebbe quasi un 6 senza un trattino, però c'è la frequenza, quindi non è che sia questa grande cosa, la frequenza è distanza perché ha cristalli liquidi. Comunque, chi è interessato lo smaltisco proprio a livello di apparato rotto. Va bene, va bene. Ok. Natalia, un 5000, quello è bello, Quello è bello, c'ha 5 watt, guarda che modulazione che c'ha col microfono normale. Ma va giù, vinco. Non ne voglio spendere il soldi, ma magari poi distruggo sempre, è un casino. Ma va, mi rugava la metà del cazzo di aiuto. E su questo non si pensa rinnovabile fino a minimi termini, comunque è impossibile disturbare con questo. Lo so. Natali, lo senti a Gianfranco? Sì. A me mi senti, caro. Vai, vai, assente Instagram. Ha dato un baracchino per farti volare, Natalino, che Io gli avevo detto che quello era una bestia, quello è un apparecchio che c'è forte ma avrà armoniche, immagino, per quello non lo usavo a casa. Io gli ho detto mettiti le macchine quelle e usati Lincoln. Buonasera a tutti e lascia perdere Claudio, qua c'era l'apocalisse ieri che si è incendiata la cucina, ha bruciato la cappa aspirante, ha rovinato il piccolo, la credenzina che c'era sopra, tutto il soffitto nero. lasciamo stare. Poi abbiamo fatto ripulistico, mia zia l'ha fatto scoppiare, l'ha fatto, mi fanno male i muscoli delle cosce che non hai idea. Come si vede che sono paralitico io, che sono sempre fermo. Ieri è stata proprio una giornata da incubo. E come mai si accende la cucina? Chi l'ha incendiata? No, da adesso non voglio inferire, però siccome qualcuna dalla cucina lascia sempre piatti di plastica lì vicino ai fornelli, roba di carta, di cartone, no? Piano piano sicuramente ha preso la fiammella, ha pigliato fuoco credo che c'era sopra la cucina, poi la fiammata è salita, ha distrutto la cappa, distrutta. Ha fatto anche blackout qua, hanno fatto cortocircuito i cavi della cappa e è andata via la luce. Sto soffitto nero, e meno male dico che, anzi la fiamma si è sviluppata verso l'alto, non è andata verso la bombola. E quindi adesso bisognerà buttarci la cappa, che non è mai servita a niente. La cucina bene o male si è salvata, anche se c'ha i fornelli un po' consumati, no? I bruciatori molto consumati, però possiamo cucinare, capito? Cesso, ma guarda, io ero soffitto, poi vi rilancio, ero soffitto in camera mia, a un certo punto sento, Marco, Marco, il blackout, blackout, vabbè, blackout. Annuso l'aria e sentivo questo odore di bruciato brutto. Cioè, vengo nella camera da pranzo verso la cucina e vedo queste fiammate. Ci ho buttato secchiate d'acqua sopra e si è spento subito per fortuna. E quello di sul vicino, siccome ha visto il fumo uscire dalla finestra della cucina, ha chiamato i vigili del fuoco che poi sono arrivati e hanno trovato tutto spento. Capito? Quello perché mamma non sa sempre, gliel'ho già detto una volta, che stava pigliando fuoco un pezzetto di cartone, una confezione di non so cosa, non lasciare roba vicino alle fiamme, ma mamma è dura, è dura come il granito, non la capisce, non è in grado più di capire le cose perché gli dici un milione di volte, un miliardo di volte te le rifà. Vabbè. Meno male che ce ne siamo accorti anzi in tempo, più prima che bruciasse tutta la cucina. Mamma mia, state attenti perché ci vuole poco, ti prende a sonno, ci rimanete secchiti con il fumo. È una cosa allucinante, mamma mia. Sì, Natale, io sono convintissimo che mettendo il presidente non disturbi. Quella radio micidiale te la metti a 5 watt, ma è cosa bassi. Cosa bassi c'ha le picchi modulazioni allucinanti, Natale. Capito? Per me ti conviene mettere il presidente con l'MB+4, secondo me non disturbi. Non lo so. Ehi, ma perché gli hanno fatto ancora storie? Minchia, se gli mai rimani. Quello che c'è in fondo al vicolo, c'è di alzare la televisione con il megafosso. E se lo tira il balle, mamma mia, è bella. Niente, no, è piazzata bene, fa posto, capovolto, stiamo qui. Sei lontano anche, non disturba la televisione sua. Certo che la pizza di Marco è ricca da avvenimenti, Buonasera comunque Marco. Insomma, in quella zona un bel incendio, avrei visto anche il fumo d'acqua, sarebbe stato uno spettacolo. Soprattutto con l'esplosione di bombola, avresti visto il fungo atomico. Ascolta Nathalie, ma in fondo al vicolo, cioè quelli di fronte non li disturbi, quello in fondo al vicolo, ci sarà un perché? In che condizioni è l'impianto di questo in fondo al vicolo? In che condizioni è il miscelatore? Ha un amplificatore d'antenna? Tante cose ci sono. Non è detto che sia tu che faccia TV, ma quello che ci porti dentro di tutto e di più. Ah, le antenne, perché l'amplificatore? Ha detto che glielo devo cambiare io. digli di pigliarsela in culo, chiaro, scusa Gianfra, che se ha roba vecchia sarà di cambiare lui, l'amplificatore digli che è vietato, che se viene un controllo delle scopposte gli fa un mazzo tanto, diglielo. Forse stai confondendo. Così dicevano tutti, che l'amplificatore dell'antenna era vietato, tranne nella centralina delle centralizzate, così dicevano. Ma la prima cosa che sento, l'amplificatore forse lo devono in trasmissione, certo, quello lineare. Il problema è che se c'è un controllo e lui non c'ha apparati omologati, che la prende grossa a prescindere da lui, diventa subito il colpevole di tutto, del buco dell'ozono e chi più ne ha più ne mette. Sì, però su questo ce le antenne via. La Natalino, abbiamo fatto il proprio, non disturba la sua televisione, non disturba quella di fronte, non disturba dove è attaccata l'antenna, non disturba nessuno. Disturba questo imbecille in fondo al vicolo e c'è un'antenna vecchia, perché l'ho vista, di quelle vecchie, che non si usano più, col amplificatore d'antenna, siccome è basso, lui amplifica il segnale da Monte Oro per portarselo dentro. Automaticamente si porta dentro anche il segnale Natalino, secondo me. Mi sembra ovvio, soprattutto se di quelli da dritti l'amplificatore, però il problema è che comunque se vanno a fare il controllo risulta intorto, lo mazziano, capito, altro che antenna le costa. Quindi l'unica soluzione è magari procurare le antenne buone, metterle e mandarci in quel paese senza amplificatore. No, anch'io un'antenna TV, questa dove dire come pare, non ti buccia. Quindi è nata lì, a quel punto lì ti conviene accedere. Prego anche io, dicevo, vabbè, buongia, esce, vedi, cosa è di cantenna, ok, allora vogliamo nuovo, non se ne vale da più. E tu esci tu dell'amplificatore. Non costano 12 euro, che quelle per il digitale terrestre sono una barca di stufi, ve le ho comprate io. Ma se sono uguali. Ce l'abbiamo noi, cazzo, ce l'abbiamo noi. Noi le abbiamo cambiate quando è entrato in funzione digitale terrestre, della centralizzata, e sono state comprate la Fusaro, questa non è una cazzata, la Fusaro, è quella con la retina, quella che c'ha l'antenna e poi c'ha una gratta, cosa buccia. Oh Claudio, magari non c'ha il cavo, la cassa, il cavo collegato quello, prende tutto anche. È nata lì, beh, quello che è vero comunque, se, cioè, se la serve non controlli, ci controlliamo tutti. Cioè avere anche queste stazioni, no, con tanti apparati non omologati e nessuno omologato in vista è brutto. Io perché tengo un unico apparecchio qua? Se succede bussa qualcuno, che non so chi è, e c'ho qualcosa di, un attimo che sono nudo, cambio, metto l'omologato, prego, avvicinatevi. Cioè anche per esempio Gianni c'ha questo stesso bel, c'ha questo mobile pieno di apparati ovviamente non omologati, tutti turbo, coso, se viene un controllo, come fai a farli entrare? Sono addirittura lì incollati con la, come si chiama la base? La staffa l'ha incollata al mobile col biadesivo, quindi non riesci nemmeno a staccarli e a nasconderli. Anch'io c'ho quel problema. È così. Un Natalino c'ha il barchino omologato adesso, sta usando quello della macchina, mi ha tolto tutto. Va bene, partiamo. No, dico, sono convinto che si usa il President, no, non disturba. Perché magari fosse troppo potente come baracchino, troppo forte, capito? Quello sì, quello è un apparecchio più alto per macchina, ma per casa non voglio nemmeno sapere le spurie e le armoniche che ha quella roba. È come una LAN 48 con il doppio modulatore, mi butta tanta fuori di quella roba, solo che un apparecchio esce forte, è un bel apparecchio. Però non è neanche giusto che Natalino gli debba pagare antenna nuova. Perché se quello si tiene in amplificatore prenderà continuamente disturbi. Adesso Natali, cos'è il normale? Quello della macchina? Quello della macchina, ecco, domanda, o quello disturbi? Perché magari quello si prende di tutto dentro. No, lo so se lo disturbo. Io continuo a parlare in presenza, poi mi mandi chi vuole. Mega Corso non ha il microfono. Presenza è staccato dall'antenna. Quindi, facciano quello che dice. Ti potrei provare a dare un filtro a 5 celle della RM Italy. Non è ZG, non è quella robaccia ZG, è migliore. Diciamo che dovreste mettervi d'accordo e fare delle prove con quell'individuo. Se poi si rifiuta di farle a priori, allora dirgli di pigliarsela nel QSO. Se c'ha tanti soldi per chiamare le scomposte, se la chiama, no? Se è tanto ricco, che se la chiami, se la paghi lui. Infatti, io sono in regola. Pago la concessione, usando l'apparecchio Goldatex. Di quella marca mi sa di no, Ma quanti canali? 40 canali? E perché il DAC? Io non ce l'ho sempre qua pronto. Il DAC mica è un baracchino di vintage. I vintage erano tutti omologati di vecchia generazione, quindi non me la fottino da me. Vabbè, io non ho questo problema, perché se possono danneggiare i corvi, i gabbiani, per il resto non ho ostacoli. Sono più alto di anche del palazzo. Vabbè, quello è un apparecchio americano portato dall'America, quello manco fa le palle omologato in Italia. C'è una lista di apparecchi omologati anche vecchi, però non mi ricordo il link. Io perché tengo questo 3009 omologato? Proprio per evitare storie. Per evitare storie, 4 watt c'ha, 4 watt, addirittura sto usando il mic normale, cosa vuoi di più? Io perché non ho più sotto l'Omega Force? Perché in teoria poteva anche disturbare, chi ha l'antenna messa poco poco male e sentirà tutto, capito? Come quello dei potenziometri, si vecchiani i cinque, si vecchiani. Vabbè, io non ho questo problema, io uso questa, omologata, non omologata, ma fottimi da me. Io non uso Banshu, quindi non disturbi, non ti disturba. Vabbè, comunque Natalia, la prova bisogna fare, deve attaccare il president, ok? Quello è MP+4, una potenza normale, del baracchino, e ti avvicini, ok? Ti avvicini, fai parlare la concetta, e vedi se disturba anche quello, allora attacchi quello lì che c'è adesso. Per me col president non disturbo, perché il president è molto selettivo come baracchino, mentre il Mega Force, il doppio modulatore, bibomba, capito? Armonica accesa. Accesa, apparire lo schermo. Capito? Appunto, tu attacchi il presidente Nico da giudizio, domani avranno attacchi il presidente Nico, dici, vai tu e dici scusa un attimino, perché sto facendo una prova, voglio capire se sei tu o sono io, perché non voglio passare imbecille. Parla con te, ok, fai la vedeta. Se non disturbi col presidente, vuol dire che è l'Omega che è troppo potente, capito? Ma sta lì, ma ti ha detto almeno la marca del televisore, che televisore è nuovo, vecchio? Nuovo, è di quelli nuovi, chi ha? Allora è un problema, ho fatto di quelli vecchi magari, ma se è nuovo di quelli piatti, vuol dire che sta entrando di brutto, perché addirittura fa sparire lo schermo, ce ne vuole. Di norma lo squadretta, i quadratini, eccetera, ma se fa sparire lo schermo è una cosa seria. Come ha schiacciato la porta di è sparito lo schermo? Senza parlare a chi va. Sarà l'amplificatore, magari di chi cinesi. Oh, Gianfranco, come mai il suo televisore non lo disturba lui e ce l'ha attaccato? L'antenna ce l'ha sopra, proprio in verticale, per casa. Vabbè, l'antenna è Natalino e attaccata, i radiali toccano l'antenna del televisore di Natalino, i radiali della NG. Sono attaccati all'antenna del televisore di Natalino, e attaccato all'antenna del televisore di Natalino c'è un gruppo di antenne del palazzo. siamo usciti fuori e non ci sono nessuno lì. Questo è alla fine del vicolo, perché è un vicolo chiuso e c'ha l'antenna con 2 metri di paro, capito? Lì, massa a massa. Allora sai cosa è successo lì? Come ti ho detto prima, si è perduto la massa in giro, perché la massa è la prima che parte, no? Quando piove, ruggine, eccetera, quindi non fa massa. E tutto il cavo diventa una mega antenna, che riceve anche male, sta d'alto, e si porta dentro tutto, perché non è schermata, non risuona su quella frequenza. Lui dovrà cambiare sicuramente cavo e antenna. E sparisce tutto quanto, perché è strano che i televisori nuovi facciano queste cose, capito? E così, c'è un problema di massa, è un problema anche di amplificatore, magari di sidadrisi, è combinato tutto questo guaio. Sì, per me è così, perché c'è un disturbo al suo, Antonino, non ha massima potenza, un disturbo a quello di fronte, un disturbo a quello di da nessuna parte, mi chiedete, un vicolo, avviene un vicolo, un po' di animo, un televisore nuovo, il digitale, quindi sono le antenne di quello lì, capito? Però, credo, se ci sia anche il baracchino troppo forte, troppo attacca al presidente, con la potenza sua, ne metti più 4 e trovi domani, capito? E mi fai sapere, nel caso ci sia da intervenire, si interviene, non ce n'è problema, qual è il problema? Sì, ma sicuramente già l'impianto ha fatto male, e gliel'ha fatto l'osservatore, l'impianto non già fa, non fa massa la stessa. Oh, lui, io, mi paga, grazie, non gliel'ho fatto, perché io ho fatto, solo perché ho parlato così, gliel'ha bene a posto, a Franco non gliel'ha messo a posto, mi paga tutto il palazzo, mi subava Franco Calicurnia, te lo ricordi? Via l'antenna tutta un casino, te l'ho messa a posto io, manco a manetta, gruchino, ti sembrava. Oh, ma avete detto che quasi arrivano alle mani, oh, così è. Ehi, ha detto che mi denuncia, che mi chiama i carabinieri da polizia, mi dispiace da pugliare. Non si avvicini più qua, perché sennò i carri li passano duro. Ah, di quelli che parte in quarta, e beh, qua lo stesso, quello dei potenziometri, ha detto che mi chiamava la polizia postale, diceva spegni tutto, capito, era della serie uomini duri, capito? E faccia come vuole, mi chiama quello che vuole, cosa mi dà? Dove, per favore, c'è la targhetta, adesso c'è la rete, dietro. Vabbè, comunque bisogna sempre trovare una soluzione, se il problema di un capo, di una massa, una cosa, si fa un sopralluogo, una tarie e si mette a posto le cose, non sarà che c'è un problema, e fuori, ci sono tanti problemi, se non mi siete bloccati, tu sei a posto, la terra è nuova, il capo è nuovo, il baracchino omologato, capo, però non attaccare lo Mega Force, attaccati il presidente Lincoln e tieniti l'omologato lì, capito? Ripeto, fai la prova con lui, senta, via e fammi sapere, ok? Se c'è da intervenire si interviene, va bene, perché se è quella che dico io, la Margherita la conosco, quindi non ci sono problemi, va bene, dai, io vi saluto e vado a cenare, ciao Gianfranco, ciao Marco e ciao Natalino, buona serata a tutti, alle prossime, ciao. Ciao Cla, allora questo è omologato perché c'è scritto omologazione protocollo. Sì, c'è scritto omologazione, protocollo omologato quello. Però attaccati il presidente, fai la prova. Oi, ci siamo passati bene o male tutti. Però come vedi, questi dei quartieri popolari, no? Credono che le cose si risolvano con la forza, no? O con i pugni. Non hanno capito che non funziona così la cosa. Poi cosa chiama carabinieri, polizia? Quelli hanno altro da fare, cose più importanti da pensare. Sì, se quello sai che è omologato, Nathalie, ci deve essere scritto omologazione numero tale tali del data tale tali. se no, se non è omologato, se non sei sicuro, ti presto l'FM500S, provi con quello, se piglia disturbi anche con quello, si arrangi lui, devi arrangiarsi, di cambiarsi l'antenna, scopri. Ciao, al punto 8 addirittura, scoppi 8 c'è scritto, quindi è omologato. Sì. Guarda, se lui prende disturbi anche con quello, è un problema suo, che si cambi l'antenna, che si tolga la, che si metta a 2 metri in più di palo, ma tolga l'amplificatore, che metta un'antenna normale, quella a pannello, non quelle di non mettere antenne alto guadagno, quelle che hanno la direttivina con i 2 riflettori messi ad angolo, che non vanno bene. L'ho messa mia zia una volta e non pigliava più la televisione. Problema suo, poi se c'è problemi già interveniamo tutti lì, capito? Gliene buttiamo la porta anche. Purtroppo Natalia, anch'io però mi sono dovuto un po' calmare rispetto ai primi tempi, che usavo anche lineare più spesso. Adesso esco spesso 4, 5 watt, 10 anche con qualche apparato, ma sempre con radio molto contenute. Gianfra, riprendi lì qualcosa, confortalo. Niente, l'apparato omologato. Se quello c'ha soldi, ma poi una volta che richiama e quelli dicono guarda che c'è la pezza legata al fil di ferro, la pare che l'abbiamo esurato, è regola. Quello non è stata una fantasia, ma una fantasia sul serio, perché pure di lì c'è la chiamata, tutto gatto, sono in casino, non per le feste. Quindi, comunque, litigare è sempre sbagliato, perché ti fa un nemico, rispetti, ti fa vivere male, insomma, è un casino tutto qui. Ma essere sempre per la pace, cercare di aver pazienza e accontentare tutti quando è possibile. Tutto lì. È partito in quarta, ti sto dicendo, in zona bassa. Addirittura dove si è attaccata l'antenna mia, si è attaccata l'antenna di un altro. Quindi dovrei disturbare sia il mio che quello di quell'altro.